Entriamo in questo dibattito con una posizione già chiara sin da ottobre, che abbiamo espresso pubblicamente per una Palestina libera e contro l'occupazione israeliana nei territori palestinesi, e la posizione che abbiamo espresso ha avuto molta poca visibilità e molta poca risonanza nella stampa, nel discorso pubblico, a differenza invece di posizionamenti sempre di organizzazioni LGBT in difesa invece di Israele e delle azioni genocide che sta commettendo in quell'area del mondo. Oltre a prendere posizione, abbiamo aderito al coordinamento Bologna per la Palestina e al movimento Quiz for Palestine, e entrambi in realtà che hanno attraversato le manifestazioni organizzate dai giovani palestinesi in questi mesi e che stanno promuovendo azioni di diverso tipo per sensibilizzare sul tema. In particolare il coordinamento Bologna per la Palestina si sta battendo per l'approvazione dell'ethical procurement in comune, si sta battendo in un'azione di sensibilizzazione verso le Coop per via della complicità con lo Stato di Israele nella vendita di prodotti che provengono da Israele, e ovviamente si sta battendo per fare sensibilizzazione e informazione sul tema. Dall'altro lato, il movimento Quiz for Palestine sta mostrando la solidarietà della comunità LGBT alla lotta per la Palestina libera, andando anche a costruire una contronarrazione alla narrazione molto forte, molto efficace di pink washing che Israele porta avanti da tanto tempo, promuovendosi come democrazia civile e in difesa dei diritti della comunità LGBT per mascherare, diciamo, quella che è la sua azione, ripeto, genocida in Palestina. In questi mesi, dalle parti di chi sostiene questo come uno scontro di civiltà, quindi le parti, diciamo così, filo israeliane, la comunità LGBT, è stato detto: ma voi sostenete dei musulmani che, insomma, sono omofobi, che con le donne non hanno, come dire, un buon trattamento. Voi cosa rispondete? Noi rispondiamo che innanzitutto posizionarsi su un genocidio a partire da questi presupposti mi sembra completamente assurdo. Anche il nostro paese è in palese violazione dei diritti umani rispetto ai diritti delle persone LGBT, eppure noi non consideriamo il nostro paese non degno della solidarietà e della collaborazione di altri paesi solo per questo motivo. Noi crediamo che esprimere solidarietà a un popolo oppresso da una potenza coloniale sia non solo un dovere etico, ma sia soprattutto una questione di posizionamento, in quanto persone che all'interno del nostro contesto occidentale possono in qualche modo sensibilizzare i propri paesi, le proprie forze politiche o economiche a disincentivare questa azione, questa strategia di colonizzazione in Palestina. Ricordiamoci che Israele agisce in questo modo in Palestina perché sa di avere l'appoggio dei paesi occidentali, in particolare degli Stati Uniti. Se questo può essere evitato, parliamo di un massacro. Parliamo di più di 30.000 vittime, tra cui donne e bambini, e io non capisco perché invece dobbiamo parlare di quale delle due realtà coinvolte organizza il Pride. Mi sembra veramente assurdo. Ecco, a proposito di Pride, il prossimo vostro sarà connotato anche dai temi, appunto, dei diritti della popolazione palestinese? Sì, l'assemblea del Pride ha già attraversato gli spazi della campata in università. Due assemblee fa siamo stati nel rettorato occupato. All'interno del Rivolta Pride ci sono esponenti del movimento Quiz for Palestine, c'è una forte contaminazione, quindi sicuramente questo tema sarà al centro del prossimo Pride. Un'ultima domanda sulle questioni, appunto, simboliche, la bandiera, Palazzo da Cursi. Voi dite affiancare la bandiera israeliana non è un'operazione, insomma, corretta rispetto a quello che sta accadendo? No, perché appunto la lettura che abbiamo e sulla base della quale ci posizioniamo è che ci sia un rapporto di potere coloniale fondamentalmente da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese, e mettere sullo stesso piano i due popoli cancella completamente questa lettura. Chiaramente noi siamo per il cessato del fuoco immediato e la fine del conflitto, e abbiamo una prospettiva a lungo termine di pace. Chiaramente è questo quello che ci auguriamo, nessuno si augura niente di diverso, ma non si può pensare di cancellare, oscurare il conflitto conflitto e soprattutto i decenni di oppressione da parte di Israele nei confronti della Palestina, tra l'altro con un'operazione che va ad analizzare tutto quello che sta succedendo come se fosse cominciato il 7 ottobre. Ricordiamoci che Israele porta avanti questa strategia da almeno 76 anni in Palestina, quindi non possiamo fingere che sia un conflitto ad armi pari tra due stati che si contendono uno spazio. Non è così, c'è un'occupazione che si sta espandendo, che sta strappando territori, che sta strappando vite, che sta procurando morte, distruzione, fame, e non lo si può affrontare come un litigio tra due popoli alla pari.